24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano ancora l'uccisione di Bin Laden con l'allerta terrorismo sul suolo europeo per le possibili ritorsioni. A 24 ore in Europa parla il ministro degli esteri italiano Franco Frattini. L'Italia si prepara intanto a un braccio di ferro con la NATO dopo il voto di oggi sulla missione in Libia, mentre sul fronte immigrazione Bruxelles invia a Roma una lettera e prepara un'importante comunicazione che sarà illustrata oggi ai giornalisti. E per lo sport l'Italia del rugby ha un nuovo commissario tecnico ed è francese. Tiene banco, come dicevamo in apertura, in Europa l'allarme terrorismo dopo la cattura di Bin Laden. In esclusiva a Radio 24 il ministro degli esteri italiano Franco Frattini avverte: non è la fine del terrorismo internazionale, ma è caduto un simbolo. I terroristi avevano progettato, progettano e progetteranno attentati contro di noi comunque. Io credo che avere fatto cadere il simbolo del male sia stato un atto che indebolisce moltissimo il terrorismo internazionale, e solo per questo noi dobbiamo essere soddisfatti. Un'operazione importante che non significa la fine del terrorismo internazionale, ma significa certamente che i terroristi non avranno più quel simbolo che avevano mitizzato a cui appellarsi, e credo non sia poco. 5 uomini sono stati arrestati sulla base del Terrorism Act vicino all'impianto nucleare di Sellafield in Gran Bretagna. Gli arresti risalgono a lunedì pomeriggio, ma solo ieri la polizia li ha resi noti. I 5 sulla ventina sono tutti londinesi. Per il premier britannico David Cameron, il raid in cui è morto Osama Bin Laden è stato un colpo al cuore del terrorismo internazionale. Ormai è certo che fosse un falso. La fotografia di Osama Bin Laden cadavere circolata lunedì in tutto il mondo. Si tratta in realtà di un fotomontaggio del 2006 che circolava già in rete. Un rischio che corrono tutti i media che ai social network attingono informazioni sempre più spesso. A Cipro la prossima settimana ne parleranno i responsabili delle TV pubbliche ed All News dell'area del Mediterraneo. Laura Bettini ha intervistato Alessandra Paradisi, segretario generale della conferenza permanente dell'audiovisivo Mediterraneo. Questa è una grande sfida per le televisioni, perché da un lato chiaramente obbliga a fare i conti con una realtà nuova e che ha sicuramente portato una possibilità ulteriore di tenere delle informazioni anche nei momenti più caldi. Dall'altra però ovviamente c'è il problema della verifica delle fonti, e il rischio è di creare magari allarmismi, di creare panico o di distorcere l'informazione. Attraverso i media passano anche le sensibilità dell'operatore, e quindi possono queste creare degli atteggiamenti nell'opinione pubblica, delle opinioni che possono avere delle conseguenze anche a volte molto serie. A proposito di sensibilità, non le pare che i mezzi di comunicazione arabi mostrino, ad esempio nell'ambito della esibizione della morte, una sensibilità diversa da quelli occidentali? Le televisioni arabe sono anche molto diverse l'una dall'altra. Detto questo, sicuramente il tema anche proprio dell'uso dell'immagine è uno dei temi caldi di confronto. Ora la crisi libica, che coinvolge in prima linea numerosi paesi europei. L'Italia cercherà con le organizzazioni internazionali come la NATO e con gli alleati la fissazione di un termine delle operazioni. Lo ha detto il ministro degli esteri Franco Frattini alla vigilia del voto alla Camera della mozione sull'intervento militare di servizio. L'accordo nella maggioranza sulla Libia c'è, ma è la NATO a dire di no. PDL e Lega trovano l'intesa su una mozione comune che verrà votata domani alle 13 nell'aula di Montecitorio, incluse tutte le richieste del Carroccio, anche quella di fissare un termine ai bombardamenti. Il capogruppo della Lega alla Camera, Marco Reguzzoni. L'accordo è soddisfacente per la Lega perché tutti i nostri punti sono stati recepiti. Il termine è rimasto, il governo dovrà, in accordo con le organizzazioni internazionali, fissare un termine e comunicarlo al Parlamento. Nel pomeriggio si prepara il testo, si ribadisce la necessità di una data di fine missione, ma si affida la scelta alla NATO, che fa subito sapere non prima della resa di Gheddafi. L'opposizione attacca, è una pantomima farsesca, ma è a sua volta divisa. La mozione del PD dà il via libera alle operazioni militari, ma 11 pacifisti del partito non la voteranno, totalmente contraria all'Italia dei valori di Antonio Di Pietro. A me pare che rispetto a questa presa in giro si debba riaffermare un solo principio: la guerra non è la soluzione dei conflitti. Favorevole agli attacchi invece il terzo polo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Montecitorio. La Francia vuole che il presidente siriano Bashar al-Assad faccia parte delle personalità colpite dalle sanzioni europee in corso di elaborazione a Bruxelles contro il regime della Siria. Lo ha detto il ministro degli esteri Alain Juppé. Ora l'immigrazione, con la Commissione europea che ha inviato una lettera all'Italia per chiedere informazioni e chiarimenti sul decreto con il quale ha istituito il titolo di viaggio per gli immigrati in arrivo dal Nord Africa. Sentiamo. È iniziato in queste ore e coinvolgerà quasi tutte le regioni italiane il trasferimento dei profughi arrivati nei giorni scorsi dalla Libia a Lampedusa. 500 andranno in Lombardia, circa 300 in Campania, altrettanti nel Lazio, 232 in Veneto, 250 in Piemonte, in Toscana 118. L'operazione coinvolgerà in tutto quasi 3.000 migranti ospitati finora nei centri per richiedenti asilo di Mineo, Caltanissetta, Pozzallo, Bari e Crotone. Qui il loro posto sarà preso dai nuovi arrivati. La polizia francese intanto si appresta a rispedire in Italia una settantina di tunisini arrivati dal nostro paese grazie ai permessi di soggiorno temporanei. Questo mentre a Ventimiglia altri tunisini proseguono il loro sciopero della fame, iniziato per protesta contro le espulsioni dalla Francia. Chiedono di poter circolare nell'area di Schengen senza restrizioni. Sulla vicenda la Commissione europea ha chiesto chiarimenti ai due paesi, al nostro per conoscere le procedure seguite per il rilascio dei permessi provvisori, alla Francia invece per sapere le zone e la frequenza dei controlli effettuati dalla polizia per individuare gli immigrati tunisini provenienti dall'Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Apriamo ora la pagina economica con le borse negative ieri Milano. Giornata di realizzi per il listino milanese dopo la chiusura debole della vigilia e il rally delle sedute precedenti. Il FTSE MIB ha registrato una flessione dello 0,37% a causa soprattutto dello scivolone di auto ed energetici. Tenaris ha così perso il 3%, penalizzata anche dal taglio del giudizio neutrale da parte di Mediobanca, seguita da Fiat -2% e Pirelli -1,6%. Il titolo del Lingotto, che il giorno prima aveva beneficiato dei conti di Chrysler, ha risentito dei dati sulle immatricolazioni in Italia, scese del 2,24% ad aprile. Fiat ha fatto peggio del mercato, con vendite in flessione dell'8,4%. La migliore del paniere principale è stata di Assorin, che ha guadagnato il 3,6% in attesa il prossimo 13 maggio di conti trimestrali definiti incoraggianti dagli stessi manager dell'azienda. Bene ST +1,5% in scia ai conti diffusi dalla tedesca Infineon, che nel secondo trimestre ha mostrato un utile netto 7 volte maggiore rispetto a quello realizzato nello stesso periodo del 2010. Livia Zancaner da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il tasso di risparmio delle famiglie nell'Eurozona e nell'Unione 27 è calato nell'ultimo trimestre del 2010. Lo rende noto Eurostat, secondo il quale nel periodo ottobre-dicembre dello scorso anno il tasso è sceso all'11,3% nell'Unione Europea contro l'11,6% del trimestre precedente. Ed è in vendita un altro colosso della moda, questa volta francese. 1 miliardo di euro. È quanto chiede Pierre Cardin per la sua storica maison. In un'intervista pubblicata oggi dal Wall Street Journal, lo stilista 88enne francese si dice pronto a vendere subito il suo gruppo per questa cifra. «So che tra qualche anno non ci sarò più», aggiunge, «e gli affari devono andare avanti». Fondato nel 1949, secondo il quotidiano finanziario, l'impero del lusso è valutato dalle banche circa 200 milioni di euro. Per la stessa cifra, nel 2009, lo stilista di origine italiana, campione di quella che oggi si chiama brand extension, con qualcosa come 800 licenze, dagli accendini alla carta da lettere, aveva venduto le sue 32 licenze tessili a due società cinesi, ma non il suo marchio, di cui è proprietario per il Medio Oriente Paris Group, la società di Dubai che ha recentemente acquistato il marchio Ferré. Cardin, che non ha eredi, ha fatto sapere di voler restare nel gruppo come direttore creativo. È nell'interesse del compratore, dice, per l'immagine del brand. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una chiacchierata con l'amico Mario Monicelli, i ricordi di altri grandi amici come Federico Fellini e Bernardino Zapponi. Una vita di incontri, viaggi e soprattutto disegno. Alla vita di Cecilia Capuana, una delle più famose fumettiste italiane, tra le grandi firme della rivista francese Metal Hurlant, ha dedicato un documentario alla regista Giulia Merenda, Come posso, presentato ieri a Roma. Marta Cagnola ha intervistato Cecilia Capuana. Prima di tutto ho conosciuto Bernardino Zapponi, che era molto attento a tutto quello che veniva dall'America, tutte queste cose nuove di cui nessuno si accorgeva, un po' un padre spirituale per me. nel tempo ho conosciuto Fellini, insomma, con Mario Monicelli è più una grande amicizia. Per me è stato un grande dolore questa perdita, però ho capito delle cose che lui diceva e che poi le leggi in altra maniera quando succedono e quando insomma, è successo quello che è successo. Quanto è stato importante per lei vivere certi fermenti europei negli anni? In quel periodo sarà che, insomma, si era giovane, insomma, questa desiderio di nuovo, pubblicavo anche su Metal Hurlant, questa rivista meravigliosa dove pubblicavano i più grandi disegnatori europei, c'era Moebius, c'era Druyer, c'erano insomma tutti questi disegnatori che hanno fatto la storia, che in Italia sono stati personaggi misconosciuti. In quel momento tutto era possibile, sembrava che si potesse trasformare il mondo, no? Siamo allo sport. Il francese Jacques Brunel, fino ad oggi allenatore del Perpignan, sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di rugby. Lo ha reso noto la Federal Rugby, ufficializzando una scelta che era già emersa negli ultimi mesi. Brunel sostituirà il sudafricano Nick Mallet subito dopo la Coppa del Mondo, che si giocherà in autunno in Nuova Zelanda. Per il tecnico francese, contratto fino al 2015. Il presidente della Federal Rugby, Giancarlo Dondi, al microfono di Dario Ricci. Sei nazioni. Andata bene, poteva andare sicuramente meglio perché ad esempio la partita contro l'Irlanda potevamo vincerla tranquillamente, potevamo addirittura vincere anche quella col Galles e ottenere un risultato eclatante. Il motivo non è questo, il motivo è proprio su una faccenda di principio che ci eravamo promessi, ci eravamo detti anche questo qua, anche quando avevamo pigliato Mallet, che il contratto sarebbe stato 4 anni, difficilmente prolungabile. Adesso lo stesso discorso l'abbiamo fatto con Brunel, sia Mallet allora che Brunel oggi hanno condiviso questa nostra tipo di politica federale, ecco. Perciò adesso Mallet avrà degli stimoli enormi per dimostrare probabilmente che noi abbiamo avuto torto a non rinnovargli il contratto. Brunel a un certo punto darà il meglio di se stesso, perché andare a allenare la nazionale che fa 6 nazioni sicuramente di grande stimolo. I giocatori sono dei professionisti, chiaramente sanno benissimo quali sono le occasioni dove possono mettere la loro qualità in vetrina, 6 nazioni, tutte le attività internazionali, in modo particolare la Coppa del Mondo. Non teme che questa decisione così in anticipo rispetto alla stessa Coppa del Mondo possa portare a delle divisioni nello spogliatoio o a una perdita di motivazioni per la squadra proprio in vista dell'appuntamento mondiale? Ma nel modo più assoluto, se ne avessi avuto un dubbio sicuramente non l'avrei fatto. Il primo commento, il primo approccio che ha avuto con Brunel, cosa l'ha convinta, cosa l'ha conquistata del tecnico francese? Ma io Brunel la conosco da tanto tempo, ho cercato di portarla in Italia nel 2003, perciò lo conosco da tanto tempo, non avevo bisogno di scoprire. Noi abbiamo fatto una selezione, mi ha ritenuto, speriamo di averti anche preso, che quello che aveva le caratteristiche più adatte poteva essere Brunella. E per gli appuntamenti di oggi vi segnaliamo la riunione settimanale della Commissione Europea, la conferenza sulle regioni innovative, ma soprattutto la conferenza stampa della commissaria agli affari interni Cecilia Malmström sulla proposta di Bruxelles relativa a immigrazione e Schengen. Infine il vicepresidente della Commissione Antonio Tajani partecipa alla conferenza sulla politica industriale. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.